stata abbastanza divertente a Mantini, dalle 9 sino a mezzogiorno, cioè era abbastanza frequentato il giorno, sono stato contento. Va bene già, buonanotte, ci sentiamo domani. Sono mezzo influenzato, qualche accidente, mi stai incoglionendo.